Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. La sovrappopolazione carceraria resta un punto dolente in Europa, secondo il rapporto annuale pubblicato oggi dal Consiglio d'Europa, che si basa sui dati raccolti nel 2012. Le prigioni erano sovrappopolate in 22 paesi dei 47 membri del Consiglio. Globalmente le carceri europee sono piene, la densità media dei penitenziari è di 98 detenuti ogni 100 posti. Ma ai primi posti per sovrappopolazione carceraria spiccano la Serbia, con 160 detenuti ogni 100 posti nelle carceri, l'Italia con 145 ogni 100 posti e poi a seguire Cipro, Ungheria e Belgio. Il tasso medio di detenzione nei paesi europei è di 150 carcerati ogni 100.000 abitanti, le percentuali più elevate nei paesi post-europei. La percentuale media di stranieri sulla popolazione carceraria è di 2 su 10, la spesa media per la detenzione nel carcere in Europa 103 euro a detenuto al giorno, ma si va da un minimo di 3 euro in Bulgaria a un massimo di 620 euro in Svezia. I reati più frequenti: il furto, l'uso di spaccio di stupefacenti, l'omicidio. L'età media dei detenuti 36 anni, le donne rappresentano il 5% del totale. E intanto è sfida a 4 tra pochissimo per la guida della Commissione europea. La campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo è ormai avviata. I 4 candidati alla presidenza della Commissione europea, il popolare Jean-Claude Juncker, il socialdemocratico Martin Schulz, il liberale Guy Verhofstadt e l'ecologista Ska Keller, si affronteranno questo pomeriggio al Parlamento europeo in un dibattito aperto al pubblico. Ieri sera si sono affrontati in un dibattito televisivo all'Università di Maastricht. Eppure la presenza di 4 candidati, a cui bisogna aggiungere Alexis Tsipras della sinistra di Syriza, offre per la prima volta una scelta chiara agli elettori europei. La decisione finale sul futuro presidente della Commissione spetta ai governi nazionali. Ma potranno questi ignorare l'esito della campagna elettorale di queste settimane e del voto del 25 maggio? Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sfida a 4, dibattito a 4, tra pochissimo sul nostro sito www.radio24.it in diretta da Bruxelles a partire dalle 14.30. L'Unione Europea ha annunciato ieri il primo parziale successo nella creazione di un carburante per aeroplani realizzato a partire da acqua e anidride carbonica, nell'ambito del progetto di ricerca SolarJet finanziato da Bruxelles. Sentiamo Marco Brusati, funzionario della Commissione Europea, al microfono di Valentina Furlanetto. L'obiettivo che si poneva a questo progetto era quello di dimostrare la possibilità di produrre combustibile, specificamente per aviazione, in maniera che sia ambientalmente positiva, cioè che abbia un impatto positivo sull'ambiente, e in una maniera che si presenti almeno come economicamente interessante in vista di sviluppi futuri. Allora, il progetto lavora su scale di laboratorio, quindi ancora a livello di dimostrazione o di fattibilità tecnico-scientifica, e utilizza la luce solare per innescare un processo termochimico che permetta di fondere praticamente molecole di anidride carbonica e di acqua e eventualmente di produrre delle catene di idrocarburi, cherosene, benzina, eccetera. Chi sono i ricercatori che hanno il merito di aver scoperto questa catena di produzione? Questo progetto è stato sviluppato da un consorzio di 5 organizzazioni, fondamentalmente enti di ricerca più enti interessati all'aspetto applicativo del processo, che sono il Bauhaus Luftart tedesco, il Politecnico di Zurigo, il centro di ricerca DLR tedesco ancora, la Shell in Olanda, e questo consorzio ha presentato questo progetto nel 2011, è stato selezionato ed è cominciato le sue attività nel giugno del 2011 per una durata di 4 anni e sta finendo adesso, con un contributo comunitario di 3 milioni e 100 mila euro circa. Quanto tempo ci verrà ora per l'applicazione concreta di tutto questo? È un problema adesso di scalabilità, cioè adesso si parla di una produzione di combustibile che è, diciamo, molto piccola, perché il progetto ha prodotto 40 millilitri di combustibile attraverso questo processo con un impianto da 3 kW in laboratorio. Dipende dalla possibilità di sviluppare effetti di scala su produzione di energia più interessanti dal punto di vista della gestione dell'energia stessa, e vedere quali sono i problemi tecnologici che l'ambiamento del fattore di scala comporti. Ci sono delle sfide tecnologiche da affrontare, però adesso come adesso la fattibilità scientifica è stata dimostrata e quindi si spera che la cosa possa avere dei sviluppi interessanti. E allora a me non resta che ricordarvi l'appuntamento tra pochissimo dalle 14.30 sul nostro sito www.radio24.it in collaborazione con Europlus, la corsa a 4 per la Commissione Europea, live il faccia a faccia tra i 4 candidati in collegamento con 15 città europee. www.radio24.it alle 14.30 e poi una sintesi questa sera alle 22, come sempre, Europa Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.